Il gatto, la donnola e il coniglio, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un bel mattino, donna donnoletta, colto il momento, nella casa entrò d'un giovane coniglio, e mentre che egli è fuori a far l'amore nella rugiada, in mezzo al timo in fiore, le masserizie sue vi collocò. Quando il coniglio ebbe mangiato ed ebbe saltato e rosicchiato, a casa sua tornò. Ma proprio in quel momento che entrava, nell'oscuro appartamento, alla finestra l'alta si affacciò. «Santa ospitalità! Che vedo io qui?» disse il coniglio fermo sulla porta. «O signora faina prepotente, faccia il piacere d'uscirne immantinente, o chiamo tutti i topi del paese che le farà sgombrare ed a sue spese». «Che la terra», risposegli madama del naso aguzzo, «è di chi se la piglia? E proprio non consiglio per sì poco d'una guerra tentarla in certo gioco. E poi per qual ragione soltanto suo proclama un luogo ove si arrampica per primo anche il padrone? Qual legge, qual diritto e su qual carta è scritto che questa tana sia di Pietro, di Martin, quondam Iseppe, o piuttosto di Gianni, od anche mia?» Gian Coniglio rispose che anche l'uso è buona legge e che per questo ei crede d'aver diritto. Il nonno suo bel muso lasciò la casa al padre suo bel piede, dal quale venne al figlio, che è lui, Giovan Coniglio. «Se del primo occupartene tu ritieni», la donnola rispose, «giusta la legge, vieni di interroghiar mammone, che è giudice sicuro in queste cose». Eran questi un gatton grasso e bonario, un sant'uomo di gatto, tutto pel, tutto gozzo e tutto lardo, e che faceva la vita beata di pacifico eremita. Buon giudice del resto in ogni sorta di casi. Vanno, picchiano alla porta, «Deo gratias, miei figliuoli», dice padre Leccardo, «venite pure avanti, perché sapete gli anni m'ha fatto sordo oltre agli altri malanni». Vanno i due litiganti senza nessun sospetto al suo santo cospetto. Quando il padre Leccardo, il santo scaltro, li vide bene a tiro, aprendo le due zampe all'uno e all'altro aggiustò le partite in un sospiro. Così capita spesso a certi staterelli che giustizia chiedon a un diplomatico congresso. Fine della favola «Il gatto, la donnola e il coniglio». Questa registrazione è di dominio pubblico.